o la predisposizione o per scienze o per lingue o per comportamenti per i quali bisogna avere un cervello che sia capace di lavorare in quella direzione. Questa è così una classificazione che mi viene in mente molto generica, ma che già può darci delle indicazioni, insomma. Senta, possiamo ammettere anche quelli che non è mai il momento, rimandano? Sì, bellissima, sono negli Stati Uniti è una categoria, c'è anche un'associazione, addirittura procrastinatori, cioè sono coloro che comunque sia hanno sempre la possibilità, di fronte ad uno stimolo nel quale viene chiesto loro, hanno la risposta prontissima per spostare nel tempo o nello spazio il loro impegno e finiscono poi ovviamente per non fare, perché non hanno mai definito quando o come farlo. Allora, ho bisogno come sempre dell'aiuto dei nostri amici da casa. Scriveteci, chiamateci per dire in quale di questi gruppi vi riconoscete. Dite di no perché vi conoscete bene, sapete già i vostri limiti, o perché avete paura di alcune cose specifiche, oppure ancora perché temete il giudizio degli altri, perché per voi magari la strada è tutta difficile, tutta in salita e non è mai tempo. 824 0024, il professor Bressa ci darà una mano, soprattutto a non dire sono fatto così, vero professore? Mai. E invece voi fate così, chiamateci e scriveteci al 349-238-6666. Una mela al giorno. Vengono vissute come una piccola tortura e farle indossare è quasi sempre frutto di una lunga contrattazione. Parliamo di calze elastiche. Non ci piacciono e belle di solito non sono, ma in alcuni casi possono davvero aiutare. Ne parliamo oggi col dottor Guido Arpaia, direttore dell'unità operativa di angiologia all'ospedale di Vimercate. Dottore, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, come sta? Io bene, grazie. Penso anche le mie gambe, ma mi piacerebbe sapere da lei, magari mi viene qualche dubbio, quali sono le gambe da calza elastica? Ma le gambe da calza elastica sono sicuramente le gambe che danno disturbi che sicuramente possono essere attribuiti a un problema venoso. E problemi venosi sicuramente di una certa importanza, sicuramente dalla presenza perlomeno di piccole varici alle varici, alle situazioni più gravi e più avanzate, che però per fortuna sono poco presenti nella popolazione generale. Senta, dottore, io so che lei è proprio un grande tecnico. Noi le chiamiamo calze elastiche, ma in realtà con lei soprattutto sarebbe meglio parlare di calze terapeutiche e calze riposanti. Assolutamente sì, la differenza è veramente notevole. Le calze riposanti sono le cosiddette calze che normalmente si acquistano nei normali negozi, graduate in denari. Solo alcune hanno una dichiarazione relativa alla compressione trasmessa alla gamba, di solito in millimetri di mercurio, e sono calze che dovrebbero essere riservate solamente proprio alle persone che magari hanno qualche sintomo relativo a una lieve insufficienza venosa. Parliamo di gambe pesanti alla sera, quelli di edemi, per chi magari sta molto in piedi durante il lavoro, ma che non hanno una malattia venosa conclamata, e queste sono quindi le cosiddette calze riposanti o di supporto. Ben altra cosa sono le calze terapeutiche, sono calze che sono costruite anche in maniera estremamente complessa tramite dei telai circolari che ne producono una in un quarto d'ora, quindi per renderci conto di quanto sia differente rispetto anche alla produzione normale, e che hanno delle compressioni dichiarate e controllate nel tempo anche da enti certificatori stranieri, una decrescenza dal basso verso l'alto che è determinata e che deve essere sempre quella, e che hanno soprattutto una taglia tale da potersi adattare perfettamente alla gamba del singolo paziente, per cui vanno anche prescritte con molta attenzione. Vanno prescritte con molta attenzione ed è importante anche che il nostro medico ci aiuti, ci spieghi come indossarle. Assolutamente sì, normalmente le calze terapeutiche vanno indossate durante il giorno, durante l'attività fisica, anche perché la calza ha bisogno del cammino per lavorare meglio, quindi il fatto di muovere le gambe è sempre comunque fondamentale. Non vanno appunto mai tenute di notte, perché una calza terapeutica potrebbe addirittura stringere troppo in alcune situazioni. vanno trattate molto bene, anche ad esempio nel lavaggio, perché la fibra elastica può essere danneggiata da lavaggi troppo caldi o troppo violenti, oppure addirittura viene danneggiata dalla presenza di cloro nell'acqua. Quindi bisogna trattarle con grande garbo. E anche tenere presente che ogni 5-6 mesi al massimo vanno cambiate perché non sono più efficaci. Senta, comunque, quando noi diciamo terapeutiche, vuol dire che curano, limitano i danni, cosa fanno? Allora, in alcune situazioni possono addirittura curare, se pensiamo a gravi malattie come la trombosi venosa profonda o le ulcere venosi, possono essere anche letteralmente curative perché influiscono il tempo di guarigione della malattia. In altri casi, come nelle varici, hanno la funzione di ridurre la sintomatologia ed evitare una evoluzione tumultuosa nel tempo. Non solo per le donne, ma anche per gli uomini, vero dottore? Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro la malattia venosa cronica è molto in aumento anche nella popolazione maschile, probabilmente anche a causa di una sedentarietà che anche nel maschio, per il tipo di lavoro, il tipo di attività, spesso costretta in una posizione sempre ferma. Quindi tocca anche a voi provare cosa vuol dire indossare una calza terapeutica. Le porto anch'io, se la cosa. E allora, dottore, grazie, la saluto, la ringrazio per essere stata con noi. Buona grazie, giornata. Arrivederci. Pronto soccorso. E riprendiamo il tema del giorno, che oggi vuole portarci a fare una riflessione sul motivo dei nostri no, intesi come rifiuti a fare, a dire o a mettersi in gioco. Tante volte preferiamo passare la mano. E professor Bressa, tra i vari gruppi che lei ha evidenziato, qual è quello che potrebbe avere più bisogno di aiuto, o meglio, che modificando questo atteggiamento potrebbe stare meglio? Beh, innanzitutto una piccola osservazione antecedente, ma proprio una pillolina. Sì. Se noi trattassimo anche il nostro cervello come il collega ci ha chiesto di trattare le calze, penso che saremmo tutti più contenti e tutti più, cioè, di trattarle bene, di curarle, di non dargli il cloro, eccetera, eccetera. Ma beh, questa comunque è a parte. Al di là di questo, Si può lavare a mano però il cervello. Si dovrebbe fare settimanalmente. Il gruppo che sicuramente risente più di un aiuto è quello che abbiamo chiamato, molto virgolettato naturalmente, sì, perché è una patologia minore, ma comunque patologico, cioè i fobici. Nel senso che in questi casi c'è sempre un trauma. Allora, non riesco a prendere più l'autobus piuttosto che la metropolitana, sì, porta con sé una brutta avventura nella quale si è stati coinvolti in un effetto negativo, percorrendo poi a Milano ormai i tram deragliano con una certa frequenza, quindi anche questo può essere un elemento di patologia che cresce, non riesco più a prendere il tram, ma ero su quel tram che l'altro giorno si è scontrato e ho avuto una grande paura. In questo caso non basta la forza di volontà, tra virgolette, di dire bene, lo riprendo perché non riuscirei a farlo. E allora in alcuni casi più leggeri può essere sufficiente un piccolo aiuto a recuperare quella condizione che si chiama evitamento, vale a dire quello stato d'animo per il quale, dovendo metterci su un tram, preferiamo evitarlo perché ci calma l'ansia, mentre certo, invece poi ci viene l'ansia perché non abbiamo preso il tram. Quindi, nei casi più complessi occorre un supporto di psicoterapia che sappia ricostruire gli esiti del trauma e consentire un riavvicinamento in modo tale che poi il trauma venga definitivamente rimosso dalla nostra psicologia. Andiamo a Imperia, ci aspetta Stella che rompe il ghiaccio. Stella, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta, 824-0024. Stella, siamo qua per lei. Buongiorno e grazie per questa opportunità. Io volevo chiedere alcune cose. Ho 49 anni, però alcune volte mi sembra di averne 18-20, nel senso che rimando sempre le cose. Quelle che posso fare oggi le rimando domani, quando poi le faccio dico, stupida che sono stata, avrei potuto fare meglio e di più. Mi accomodo un po' sulle situazioni, nonostante sono molto impegnata, ho due figli, sono da sola, quindi le cose ci sono da fare. Però quando parlo con gli altri tutti mi vedono invece una persona forte, decisiva, pronta a tutto, senza timori, senza paure, cosa che non è vera. Beh, queste le abbiamo tutte, Stella, meno male. No, però nel senso di come mi vedono gli altri. Certo. Professor Bressa.

ad esempio, io lo dico quando a casa mi dicono ma vuoi sempre tutte le cose in ordine, e io dico beh sì, io sono fatta così, mi piace vedere l'armadio in ordine, ma non mi ascoltano. Camilla, venga la sua domanda. Sì, allora io volevo fare un intervento perché appartengo alla categoria di chi procrastina sempre, ma questo perché amo vivere sotto tensione e faccio sempre tutto all'ultimo momento. Sì. E il secondo... Sì, Camilla, siamo qua. Il secondo intervento riguarda la mia fobia per gli insetti che non vorrei trasmettere alla mia bambina che ha appena 4 mesi, ma io impazzisco appena vedo qualsiasi tipo di forma di vita che è più piccola di 2 centimetri. Ah sì, le fanno paura. Grazie Camilla. Professor Bressa, 2 indicazioni per Camilla? Sì, per quanto riguarda il procrastinare, ripeto, se è una modalità entro la quale comunque c'è un buon funzionamento e si riescono a stabilire dei validi rapporti con persone o tolleranti o a loro volta procrastinanti e non si riesce a cambiare, vuol dire va bene così. Riguardo gli insetti, il rischio di contagiare la bimba di 4 mesi è per ora assolutamente precoce, potrà essere importante educativamente nel corso dei mesi o anche del prossimo paio d'anni fare una piccola verifica di come potrà Camilla lavorare con la propria bambina, dando alla bambina la possibilità di entrare in contatto col mondo degli insetti, sapendo che la mamma viceversa ne ha un minimo di difficoltà, quindi che la bambina impari a rispettare la difficoltà della mamma, magari anche prendendola in giro se capita, ma differenziando, se lo avrà il desiderio, di poter amare gli insetti sapendo che la mamma viceversa non li ama. Ecco, una differenziazione più educativa. 824 0024. Saluto Paolo che ci chiama dalla provincia di Vicenza perché poi andiamo ai mercati. Paolo, buongiorno. Cos'è che non sa dire, non sa fare, non vuol fare o rimanda? Tante cose. Me ne dica una che poi l'accompagno con me. Per esempio, sono proprio disordinato. Lavoro e anche a casa. Sì. Dopo un'altra cosa più importante, che è una vita che dico devo fare la dieta, e dopo ci casco sempre e non riesco mai a farla. Ecco, il giorno del mai, l'anno del poi. Paolo, non riesce a mettersi a dieta? Magari anche molti di voi avranno la stessa difficoltà di Paolo, uno che rimanda e non arriva mai il momento. Professore? Perché mettersi a dieta non è piacevole. Sì, non è nel primo né l'ultimo e non credo che esistano regole magiche. Devo dire che però purtroppo è come smettere di fumare o iniziare la dieta. Sono avvenimenti che vengono poi così facilitati dall'incontro talvolta, che so, con una brutta bronchite o con il rilievo che il colesterolo è veramente molto alto, quindi quando avvengono delle piccole minacce che ci fanno sentire che non è più uno scherzo, un gioco, ma può diventare importante. La forza arriva. Si attiva, sì, non è bello, voglio dire, non è augurabile, peraltro se poi il non mettersi a dieta non comporta necessariamente dei disagi fisici particolari, va bene, uno fa anche poi i conti con come è fatto, appunto in questo caso il sono fatto così può essere anche giustificato, non è questo salutismo poi quasi drammatizzante talvolta anche. È troppo, eccessivo, dice lei. Certo. A volte a darci scacco è una sorta di blocco cognitivo, come se il nostro cervello non trovasse mai la porta giusta da aprire, dietro alla quale si trova la soluzione a prove che poi per noi risultano complesse. Vorrei fare degli esempi concreti. Entra in casa un elettrodomestico e io so già che non capirò le istruzioni di montaggio e funzionamento e passo la mano. La stessa cosa può capitare con le funzioni del cellulare. Mi applico, leggo un po', provo, poi alla fine non capisco più nulla. Oppure, ahimè, devo fare i conti con la spesa e comincio e ricomincio più volte, poi sommo, sottraggo, eccetera. Alla fine mi sembra di non riuscirci. O ancora, come mi scrivono alcuni ascoltatori, cerco di memorizzare una canzone che mi piace molto, ma le parole non mi entrano in testa. Se vi ritrovate in una di queste situazioni, abbiamo un aiuto per voi, perché in linea con noi il professor Stefano Cappa, che è ordinario di neuropsicologia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno.

tutte le stesse propensioni, diciamo. Sì, come diceva il professor Bressa, insomma. Voglio dire, banalmente, ci sono persone che veramente hanno grossa facilità a prendere le lingue, persone che invece hanno delle difficoltà. Sono un po' gnocche. E fra l'altro sappiamo anche un po' di più su quali sono i meccanismi possibili che ci stanno dietro, cioè differenze nella capacità, per esempio, della memoria fonologica. Ci sono delle differenze individuali. Per cui io direi, se uno non aveva interesse a prendere lingue e lo faceva male da giovane, forse pensare di mettersi a imparare l'inglese in età a 40 anni non è una buona idea. Ci si può provare, ma non vorrei appunto che ingenerasse più frustrazione che soddisfazione. Invece, ovviamente, se uno ha sempre avuto un grande interesse per questo aspetto della cultura, è chiaro che da anziano si può dedicare con grande piacere a imparare anche il cinese. Mi piace questa, dobbiamo conoscerci, cercare di fare le cose piacevoli, e al nostro cervello piace che noi ci divertiamo, giusto? Direi, professore? Sì, la gratificazione è un elemento importantissimo dell'apprendimento. Bene, sottolineiamolo, e vi ricordo che di mente, cervello, memoria si parla a Bergamo Scienza. La rassegna si chiude il 19 di ottobre. Se volete avere il calendario, www.bergamoscienza.it. Professor K, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Figuri, buona giornata anche a lei. E prima di salutare Serena, che ci chiama da Roma, 824 0024, è arrivato il nostro momento del consiglio di lettura. Mamma, papà, non ce la farò mai. Questo è il titolo del libro di oggi. Se volete riceverlo a casa dovete essere veloci, mandare per primi un'email a esserebenessere@radio24.it con il titolo del libro, i recapiti e il numero di telefono. Tra l'altro, se siete interessati a questo aspetto, ai no che non ce la so fare, non sono capace dei bambini, sul nostro sito c'è un'intervista ad Alberto Pellai, il mio inquilino del sabato di Questa casa non è un albergo, con indicazioni mirate per i genitori. In collaborazione con IBS.it. Bella Serena, siamo a lei. Buongiorno e grazie per l'attesa. Buongiorno, telefono per avere dei consigli. Mio marito sta passando un momento difficile con pressioni economiche al lavoro, sì. e questo gli porta ad avere poi ad essere assalito da ansie notturne, non riesce a dormire la notte. E io ho un atteggiamento alternato, diciamo, con lui. Alcune volte lo avvolgo di premure, cure, sì, come una madre, e invece altre volte lo assalgo dicendogli che deve assolutamente reagire. Una sorta di terapia d'urto, Serena. E quindi vorrei un consiglio, non so cosa fare, anche perché abbiamo due bimbi che mi prendono a 360 gradi, immagino, uno molto piccolo. Grazie Serena. Professor Bressa, vogliamo dare una mano a Serena, un'indicazione? Sì, ma mi sembra che sia già contenuta la risposta nell'osservazione che ha fatto, a volte e a volte. Allora, se lei constata statisticamente se l'atteggiamento A sortisce un certo tipo di effetto o l'atteggiamento B ne sortisce un altro, se l'atteggiamento A sortisce effetto il giovedì e il sabato ma non il martedì e il lunedì e viceversa, cioè trarre dall'esperienza di quello che suo marito in difficoltà riceve come cosa più gradita e come più utile per poter recuperare il sonno. Allora a questo punto non bisogna inventarsi nulla, è sufficiente dare ascolto alle risposte che si ottengono quando si fornisce un aiuto. Se l'aiuto serve a qualcosa si va in quella direzione, se l'aiuto non serve si cambia. Certo, bisogna un po' essere flessibili. La signora ha voglia di aiutarlo e non sa come fare, ma anche magari aprire un piccolo dibattito un pomeriggio o una sera, cosa ti aspetteresti che se io facessi ti darebbe ottimi risultati, mi sono incartato in 7 congiuntivi. Sì, ma però abbiamo capito, professor Bressa, è una cosa molto diffusa, no? Mi sono incartato, non sono riuscito a dire il congiuntivo giusto, ma questo, il concetto l'abbiamo assolutamente capito, quindi si può chiedere direttamente al marito, al nostro compagno, cosa aiutami ad aiutarti. Ok, posso fare per te? Andiamo, vediamo che cosa possiamo fare invece per Mario, che ci chiama da Bologna. Buongiorno Mario. Buongiorno, io volevo lanciare, non so, una mia impressione. Quando mi trovo la gente di fronte che mi dice io non sono in grado o non ce la faccio a rispettare un impegno d'orario o un impegno di un progetto, non è che forse non c'è il coraggio di ammettere essere umili e quindi, non so, o di rinunciare all'inizio o comunque di portare a termine una volta che si fa o si prende una decisione. Questa è un po' una riflessione che mi faccio, sì, che la faccio anche su me stesso. Che la fa anche su se stesso. Professor Bressa. Ma perché no? Mettere però a proprio agio una persona nel non, come dire, umiliarlo eventualmente di fronte a un, appunto, a riflettere sul fatto che ci possano essere veramente delle difficoltà, delle capacità, delle attitudini e che quindi la rinuncia poi faccia bene a chi non riesce a farlo e naturalmente a chi deve poi trarre vantaggio dal suo operato. Però sono, non ci sono più, sono sempre meno frequenti queste dinamiche nelle quali nei rapporti, specialmente subalterne, esista comunque da chi sta più in alto verso chi sta più in basso l'umiltà del domandare e non l'imposizione, la performance a tutti i costi. È uno stile brutto, è uno stile che tende a umiliare e quindi, sì, a chi poi si sente più debole, talvolta a cercare di sviare intorno perché poi teme l'aggressività, certo, o teme il licenziamento. Certo. Dimmi che sarò bravo e lo sarò. Professor Bressa, perché no? I non sei capace di mio padre, ci scrive Cesare, quando ero piccolo, li sento ancora oggi a ogni nuovo impegno. Tante volte la nostra fragilità, la nostra difficoltà, la nostra insicurezza, il non farci dire non sono capace, non ce la posso fare, derivano da un'educazione, non per dare sempre la colpa ai genitori, che ci ha un po' schiacciato, ci ha reso un po' insicuri, professor Bressa. Però crescendo è giusto che uno si scrolli un po' di dosso queste sensazioni, questi segni, giusto? Non, sì, giustissimo, ma non è sempre facile. Mia madre è 86enne, è viva e vegeta, che sicuramente non ci ascolta, quindi ne posso parlare male, alla veneranda età ormai mia di 58 continua a sostenere che su alcune cose non sono comunque capace, me lo ripete da 58 anni. Ora è chiaro, io me lo sono scrollato e ho dimostrato che alcune cose sono capace, ma quando devo per caso appendere un quadro mi viene in mente che lei mi dice che non sono capace e regolarmente mi pesto due dita e il quadro crolla, quindi quell'anatema continua a essere vivo. Professor Bressa, noi in pratica dovremmo aver concluso questa nostra trasmissione, ma io prima di salutarla, prima di salutarla voglio presentarle un amico che è uno scultore. E allora molti di noi si chiederanno cosa fa uno scultore in un programma di salute. Bene, lo scultore si chiama Felice Tagliaferri, uno scultore molto famoso. Ciao Felice. Ciao. Felice, ho anche il professor Bressa, che è docente di psicobiologia del comportamento umano all'Università IPU di Viterbo, che per questa nostra chiacchierata finale che facciamo ogni giovedì in chiusura, l'abbiamo iniziata il giovedì scorso, perché Felice è non vedente e noi vogliamo un po' raccontare la sua storia, perché Felice è riuscito, lui veramente non è capace in questa trasmissione, non è capace di vedere, Felice, ma tu hai tradotto con la tua arte le immagini che avevi dentro, e questa mi sembra una cosa bella da raccontare per radio. Vedo che vuole parlare anche il tuo cane, Felice. Il mio cane è un gran chicchere. Ok, Felice, siamo qua. Sì, appunto, faccio lo scultore ormai da 10 anni. Io ero impiegato in un ufficio pubblico e poi dopo mi sentivo un po' un leone in gabbia e ho iniziato appunto a frequentare lo studio di uno scultore con una grossa passione, che ho deciso di dar sfogo ai miei sentimenti, proprio tuffarmi totalmente in questa cosa, nonostante tutti i non ce la puoi fare, non sarai mai capace, eccetera eccetera. Ho dato forza al mio istinto, sono andato avanti e adesso fortunatamente ho il successo che mi meriti, insomma. Sì, raccogli, c'è un sito bellissimo di Felice Tagliaferri dove potete vedere anche le sue sculture. Soprattutto, Felice, tu al buio accendi la creatività, fai dei corsi per le scuole, viaggi tutta Italia e non solo. Allora, io vorrei, il professor Bressa ci ha dato già tante indicazioni nella trasmissione di oggi, chiudere con una tua pillola per aiutare anche noi ad aggiungere un pizzico di creatività nel nostro quotidiano. Ma allora, la mia pillola è dare forma ai nostri sogni, nel senso che chiunque può, l'importante è che ci creda e spinga l'acceleratore fino in fondo e si riesce. Questa pillola la uso anche nelle aziende, appunto, dove faccio corsi per la motivazione motivazionale, appunto, per le persone delle aziende, e funziona sempre. Se funziona con i bambini, seguiamoci con gli adulti. Allora Felice, io ti ringrazio per essere stato con noi. La vita è una continua ricerca, ci sta scrivendo, ci ha scritto penso un secondo fa un ascoltatore anonimo. Chiuderei con un saluto al professor Bressa. Professore, sono contenta di averle fatto conoscere Felice. Anch'io, anche perché sono sempre esempi che utilizzano, e questo lo trovo proprio per un secondo, una riflessione finale, trovo che non fanno mai appello alla parola volontà, che talvolta è abusa e non sappiamo neanche dove si situa. Si parla di altro, si parla di ascolto di sé, di capacità di determinazione e di grande, grande, grande rispetto di come si è fatti. Se riusciamo a realizzare questo, probabilmente quello che non riusciamo a fare non ci darà ansia e magari potremo farlo in un'altra vita, perché no? Un saluto a professor Bressa, un abbraccio a Felice Tagliaferri, appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.